America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Tonight's game was a fitting end to that season. An extraordinary game tonight and a great ending to the Giants, to the mayor and the Tisch family. You're now world champions once again. Congratulations. Avete sentito, i Giants hanno vinto il Super Bowl. È stata una partita molto bella, entusiasmante, una partita che si è decisa all'ultimo secondo, una partita classica. Madonna è stata la star della serata, la star dopo la fine del primo tempo, nell'intervallo, ha cantato varie canzoni in costumi sempre così, molto sgargianti, molto particolari. La cosa che mi ha colpito di più poi è stata la rapidità con cui Madonna cambiava i propri vestiti, perché tutto avveniva in pochi secondi, ma letteralmente in pochi secondi. Canzoni straordinarie come sempre, una Madonna pagana, quella che abbiamo visto al debutto vestita da antica Cleopatra, chissà, magari poteva essere un omaggio a Liz Taylor, e poi naturalmente arrivata su Like a Prayer ed era vestita invece da sacerdote. Ecco, un po' di curiosità di questa partita: i biglietti sono stati venduti a circa $4,000 l'uno, il record è stato per un biglietto venduto dai Bagarini a $16,480. 100 milioni di spettatori hanno visto il Super Bowl ieri sera soltanto negli Stati Uniti, e questo ha trasformato il Super Bowl nell'evento più seguito nella televisione americana. Super Bowl è anche la grande festa della pubblicità, è una specie di grande festival, c'è una gara per vedere chi fa la pubblicità migliore, anche perché diciamo costa caro. Uno spot di 30 secondi sulla NBC costa mediamente $3,5 milioni, ci sono 70 spot televisivi durante la partita, quindi stiamo parlando soltanto di inserzioni pubblicitarie in 2 ore e mezzo di trasmissioni di oltre $200 milioni. Vi dicevo che ci sono state gare di vario genere fra gli inserzionisti. La Chevrolet, per esempio, ha creato un'application fatta apposta per il Super Bowl. Gli spettatori hanno potuto vincere di tutto durante la trasmissione, da una pizza a una Chevrolet Camaro Coupé. La Coca-Cola ha aperto una pagina di Facebook dedicata all'evento con gli orsi polari a fare il tifo per le due squadre. Una delle pubblicità più divertenti è stata quella della Volkswagen, che ha diffuso su YouTube in anticipazione dello spot. Beh, ha superato i 3 milioni di contatti, e la storia di un cane che vorrebbe uscire di casa per rincorrere una macchina che passa, naturalmente una Volkswagen, ma il porticino dal quale deve passare è troppo stretto perché lui è troppo grasso, quindi questo cane si intristisce, va davanti allo specchio, si accorge di essere enormemente grasso e cosa fa? Comincia una cura dimagrante. La pubblicità è geniale perché raccoglie quelli che sono i tre miti più sentiti in America: due positivi, il cane e la macchina, e il terzo, vissuto con grande sofferenza, quello dell'obesità. It's halftime. Both teams are in their locker room discussing what they can do to win this game in the second half. It's halftime in America too. People are out of work and they're hurting, and they're all wondering what they're going to do to make a comeback. And we're all scared because this isn't a game. This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's going to hear the roar of our engines. Yeah, it's halftime, America. And our second half's about to begin. E la voce di Clint Eastwood, lo avete sentito, il grandissimo attore, il grandissimo regista americano ingaggiato dalla Chrysler, non menziona mai il nome, una pubblicità che si indirizza un po' a tutti, si indirizza all'America, si indirizza al settore dell'auto, e dice Clint Eastwood: è la fine del primo tempo, le squadre negli spogliatoi discutono la migliore strategia per vincere la partita, è la fine del primo tempo anche per l'America, dove la gente si chiede cosa fare per ritornare a vincere e sa che non si tratta di un gioco. Questo paese non può essere messo KO con un pugno. Noi ci rialziamo sempre, quando lo facciamo il mondo sentirà il rombo dei nostri motori. Sì, è fine primo tempo per l'America e il secondo tempo sta per cominciare. Una pubblicità molto suggestiva. Ce n'è stata un'altra molto suggestiva, però direi più provocatoria che suggestiva. Sentite. Che cosa guardi, eh? Che cosa guardi? Mi stai sfogliando con gli occhi? Non puoi farne a meno, poverino. Ti batte il cuore. Ti gira la testa. Sei perso pensando che sarò tua per sempre. È una ragazza italiana, una ragazza bruna che parla in italiano, come avete sentito, ed è la pubblicità per la 500 Abarth. Questa ragazza provoca un giovane un po' timido e lo provoca al punto tale che posso immaginare le reazioni che ci sono state ieri sera da tutti i fan americani che, coperti di birra, vedevano questo incontro ravvicinato. L'auto dunque ha fatto da filo conduttore per la pubblicità. Paul Krugman, che non deve aver visto la partita perché forse avrebbe scritto qualcosa diverso, ebbene, sul New York Times ha scritto che sì, le cose forse stanno andando un po' meglio sul fronte dell'occupazione in America, ma non stanno ancora al punto giusto. L'America resta in depressione, l'America resta in crisi e dunque c'è ancora molto lavoro da fare. Non deve aver visto queste pubblicità perché nel momento in cui l'industria dell'auto si lancia come si è lanciata ieri sera con uno spiegamento di forze come quello che abbiamo visto, ecco, vuol dire che forse le cose invece stanno cambiando, perché l'investimento è stato massiccio e credo che non ci sia nessuno meglio di coloro che operano nel settore dell'auto per avere un polso migliore del paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, grande show di Madonna, vi dicevo, durante il Super Bowl. La cantante ha ballato con gli artisti del Cirque du Soleil, l'ha duettato con Nicki Mia per lanciare il suo nuovo single di Madonna, Give Me All Your Loving. It's right in front of you, not tell me what you think it all. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.